Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: oggi più tranquilla la borsa di Mosca e devo dire leggermente negative, non più tranquille perché ieri bene non andate le borse europee a partire da Milano, dicevo leggermente negativa Milano, meno 0,4%, Francoforte invariata, Parigi più 0,7%, Londra invariata anch'essa. Di cosa parleremo in questa giornata economico-finanziaria? Dell'ILVA. Lo faremo nella seconda ora del programma, lo stabilimento che era il più grande in Italia e resta il secondo in Europa, fornisce circa il 50%, forniva, della produzione di acciaio del paese. Ecco, chiaramente il fatturato è precipitato dai 6 miliardi del 2011 ai 3 miliardi 8 del 2013. Da giugno 2014 il commissario straordinario è Piero Gnudi, il quale oggi è intervenuto in commissione alla Camera e su questo Commissione Attività Produttive ha lanciato un allarme dicendo sostanzialmente attenzione, nessuno comprerà un'azienda sotto sequestro. Sono arrivate manifestazioni di interesse dal gruppo ArcelorMittal congiuntamente con il gruppo Marcegaglia e dal gruppo Arvedi. Tra l'altro il Presidente del Consiglio Matteo Renzi nel suo intervento all'Assemblea del PD, secondo quanto riferito su Twitter da Francesco Russo, ha detto attenzione, non possiamo abbandonare i lavoratori o vedere svendere l'ILVA al primo privato che vuole approfittarne, ce ne occuperemo nel Consiglio dei Ministri del prossimo 24 dicembre. Il riferimento ai privati era soprattutto ArcelorMittal, perché insomma l'offerta era praticamente a zero, quella di ArcelorMittal, ma ne parleremo con maggior approfondimento e dettaglio nella seconda ora del programma, anche perché sempre Gnudi ha ricordato che da un lato sta trattando con la Svizzera sui soldi dei Riva, perché del 1.200.000.000 di euro sequestrati 164 milioni sono in Italia, mentre gli altri sono in Svizzera e sono stati scudati e quindi stanno trattando con le autorità svizzere per il rientro. Sono soldi comunque detenuti legalmente perché appunto avevano utilizzato lo scudo fiscale. Ancora, sempre Gnudi ha detto attenzione, noi con i soldi che abbiamo in cassa possiamo pagare gli stipendi di dicembre e forse di gennaio, più in là non si può andare. E poi ha definito una catastrofe l'ipotesi che l'ENI possa cessare le forniture, un'ipotesi oggi presente anche sul Sole 24 Ore. Di questo, dicevo, parleremo nella seconda ora del programma, parleremo anche degli scenari economici oggi delineati dal Centro Studi Confindustria, nel giorno in cui poi la Confindustria ha fatto sapere che si costituirà parte civile nel procedimento penale avviato dalla Procura di Roma nell'ambito dell'indagine su Mafia Capitale e ha stimato in 300 miliardi la crescita mancata negli ultimi 20 anni come effetto della corruzione in Italia. Ma attenzione, è una cosa ancora diversa, perché dice il Centro Studi Confindustria, se noi avessimo un livello di corruzione simile a quello stimato in Francia, e cioè fosse di un punto percentuale in meno, noi avremmo in questi 20 anni avuto una crescita economica, poi ce lo faremo spiegare nel dettaglio, di 300 miliardi in più. Non è che si siano persi, nel senso che siano stati sottratti in senso reale, ma si sono persi perché non si sono realizzati questi 300 miliardi in più. Interessante il riferimento alla Francia, perché più di una volta abbiamo detto che qua non si tratta di fare le mezze vergini, immaginare un mondo in cui non c'è nessun corrotto e sostanzialmente definire l'Italia come unico paese corrotto. Basterebbe con un po' di realismo, mi rendo conto forse cinico, ma con un po' di realismo, che l'Italia avesse un tasso di corruzione simile ad altri paesi, appunto la Francia, dove non è che non ci sia la corruzione, ce n'è di meno e, fatemi aggiungere, in molti casi è anche più efficiente, e cioè le opere vengono finite magari nei tempi corretti, non si esclude che vi possa essere pagamento di tangenti, vi possa essere la corruzione, ma intanto di minore intensità e, in secondo luogo, se mi passa del termine, più produttiva, almeno le opere si fanno. Qui si corrompe e le opere non vengono nemmeno finite o li evitano a dei livelli indecenti. Pensate solo a quello che è stato la lievitazione dei prezzi del MOSE da 4 miliardi e 7 a 6 miliardi e 4, quasi 2 miliardi in più. Ok. Allora, per quello che riguarda gli altri temi, vedo che già qualcuno dice oggi è di una noia mortale. Un attimo, abbiamo anche altri temi. C'è l'ILVA, c'è il Centro Studi Confindustria, che tra l'altro ha una buona notizia, perché in realtà va a stimare l'effetto positivo di un petrolio in calo, e lo stima non a 50 dollari al barile, ma lo stima a 70 dollari per l'anno prossimo, e di un euro che si mantenga a quota 1,25. E da questo deriva una crescita in più del PIL dello 0,5-0,7, loro prudentemente stimano lo 0,5%. Tant'è che il PIL italiano viene visto l'anno prossimo a un più 0,5, nel 2016 più 1,1. Chiaro che la battuta è: cresciamo solo grazie a fenomeni esterni, e cioè calo del prezzo del petrolio e calo dell'euro che avvantaggia le nostre esportazioni. E questo è il dato, anche perché sul fronte investimenti non ci sono segnali di un'inversione di rotta, quindi continuano ad essere molto deboli, se non assenti, gli investimenti. Sul fronte dell'export i dati sono buoni, ma non basta riequilibrare l'assenza di investimenti, e sul fronte dei consumi sì, qualcosa si sta muovendo, ma sempre a livelli molto molto bassi. In apertura le Poste italiane, come promesso ieri il piano industriale, abbiamo intervistato il numero uno Francesco Caio proprio su questo, e come sempre anche la Borsa. Già accennavo al tema del calo di Milano. Per quello che riguarda i titoli, Monte dei Paschi oggi perde il 2,60, come UbiBanca, la Pop Milano il 2,30, Azimut meno 2,5. Chi guadagna oggi? Tenaris più 2,30, Eni più 2,10, Iux più 1,5, Banco Popolare più 0,7, come Toz, Saipem più 0,6%. E per quello che riguarda anche i rapporti di cambio, oggi poco mossi. Partiamo dalle notizie in breve di carattere internazionale, come sempre, e partiamo quindi anche dalla Russia. Internazionale, dicevamo. Allora, per quello che riguarda la borsa russa, oggi c'è stato un recupero, anche di attenzione, ci sono due indici, quello in dollari e quello in rubli. Quello in dollari, quello che ieri aveva chiuso comunque con un forte calo del 12%, oggi ha guadagnato il 14%, quello in valuta locale, che si chiama Micex, è ancora debole. Come va il rublo? Beh, ha recuperato un bel po', anche se resta su livelli bassissimi nei confronti del dollaro e anche nei confronti dell'euro. Nei confronti dell'euro è scambiato a 75,975, quindi contro i 100 rubli che servivano ieri per comprare un euro, e i 92 di questa mattina. Con il dollaro siamo a quota 60-61 rubli per un dollaro. Ci sono motivi? Beh, un po' di rimbalzo e poi l'annuncio della Banca Centrale Russa di una serie di misure per stabilizzare le banche messe a rischio dal crollo del rublo negli ultimi giorni. Fra le misure annunciate, aiuti alla ricapitalizzazione delle banche, questo assieme al governo, che di fatto portano a una forma di nazionalizzazione di alcune banche russe. E poi una moratoria sulle coperture dei prestiti a rischio e dei prestiti in valuta estera. Chiaramente la Russia, nella banca centrale russa, fa quello che vuole, non ha, non ha una vigilanza superiore come le nostre banche centrali. Ancora, il Ministero delle Finanze russo ha annunciato di aver cominciato a vendere il resto dei fondi in valuta straniera sul mercato per difendere il rublo. Il primo ministro Medvedev ha detto: no, norme rigide contro il crollo del rublo, abbiamo risorse sufficienti per affrontare la crisi. E poi ha incontrato le società, le principali società esportatrici di energie e materie prime in Russia, chiedendo di vendere in modo stabile e regolare gli introiti in valuta per prevenire sbalzi del tasso di cambio. Però dalla Germania il presidente dell'Istituto Economico Tedesco DIV ha stimato nel 33% le possibilità di un fallimento russo. Non è una stima, diciamo, sua improvvisata, è la stima che deriva dall'osservazione dell'andamento dei credit swaps, quindi dei premi che si pagano per assicurarsi contro il rischio di un fallimento russo, i cosiddetti CDS. Sul fronte internazionale, per quello che riguarda invece gli Stati Uniti, oggi il dato sui prezzi al consumo segnala il calo più forte dal 2008, nel giorno in cui, questa sera per la precisione, si riunirà il comitato direttivo della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, il FOMC, da cui dovrebbero arrivare maggiori indicazioni sulla politica dei tassi di interesse e quindi del costo del denaro che gli Stati Uniti intendono avviare e seguire nei prossimi mesi. Ma dicevo, il calo più forte dal dicembre del 2008 nei prezzi al consumo americani. Nel frattempo, una notizia a cavallo tra la politica estera e l'economia: si normalizzano o vanno verso la normalizzazione i rapporti tra Cuba e gli Stati Uniti. Ci sarebbe anche l'obiettivo, secondo quanto riportano i media americani, di aprire un'ambasciata americana a L'Avana. Gli Stati Uniti dovrebbero annunciare quindi la rimozione delle restrizioni ai viaggi e al trasferimento di denaro con Cuba. Veniamo all'Europa. Alle 18, se non ricordo male, ora italiana, inizierà la votazione in Grecia, nel Parlamento ellenico, per la procedura per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, che è il casus belli che ha scatenato tutte le tensioni sulla Grecia delle ultime settimane. Allora, è anche l'oggetto del duro confronto politico tra governo e opposizione. Nella votazione prevista per le 18 il governo spera di raggiungere un numero di voti, devono essere tra i 160 e i 165 sufficienti ad eleggere il candidato, o meglio, i voti sufficienti devono essere 180 per eleggere il candidato che propone il governo, che è Stavros Dimas. Però partire è un po', assomiglia un po' al meccanismo italiano: partire con una prima votazione e ottenere 160-165 voti a favore sarebbe una buona piattaforma per riuscire a ottenere i 180 voti necessari alla terza e ultima votazione, nel senso che sono tre le votazioni possibili. Se alla terza votazione non si dovessero riuscire a ottenere i 180 voti necessari, a questo punto sarà certo che in Grecia si andrà a elezioni a febbraio, e lì le nubi si addensano, perché stando ai sondaggi, che pure vanno presi con le pinze, il vantaggio di Tsipras, quindi della sinistra che è all'opposizione, è un vantaggio consistente tra i 7 e i 9 punti nei confronti del governo Samaras. E le scadenze sono le seguenti: la terza votazione in Grecia e quindi l'ultima è in programma per il 29 dicembre. Lì infatti è richiesta una maggioranza dei 3/5 contro i 2/3 delle prime due votazioni. Appunto, se questa votazione fallisse si andrebbe a elezioni, Gli ultimi sondaggi danno vincente il partito di sinistra Siriza, quello di Tsipras, con il 30% delle preferenze. Segue Samaras, e quindi New Democracy, l'attuale governo in carica, con circa il 25% delle preferenze. Poi il PASOK, che è crollato al 7,5%, praticamente identico quasi all'estrema destra di Alba Dorata, che è data al 6,5%. Due notizie in breve sulla legge di stabilità. Questa sera dovrebbero essere votati la maggior parte degli emendamenti. Allora, alcune novità: via libera della Commissione Bilancio del Senato all'emendamento del relatore alla manovra che prevede un credito d'imposta del 10% per le imprese senza dipendenti. Serve a bilanciare il taglio dell'IRAP sul costo del lavoro non destinato a queste imprese, e compensare l'aumento dell'aliquota base dal 3,5% al 3,9%. La tassazione per i fondi pensione e le casse privatizzate verrà ridotta rispettivamente al 12,5% per i fondi pensione e al 20% per le casse privatizzate rispetto a quanto previsto dalla manovra per la quota di investimenti di medio e lungo periodo nell'economia. È stato riformulato infatti l'emendamento del relatore alla manovra. Per quello che riguarda, vedo molti messaggi su cosa fa l'America in questo momento. L'America è più 0,70%, poi vedremo cosa dirà oggi la Federal Reserve. Dicevo, un'ultima notizia che riguarda l'Italia, riguarda il contratto dei bancari. Allora, il comitato esecutivo dell'ABI ha deciso di confermare la disdetta del contratto dei bancari al 31 dicembre, però come già ci aveva anticipato Alessandro Profumo, che rappresenta le banche e responsabile delle relazioni sindacali dell'ABI, oltre che presidente del Monte dei Paschi, in questa trattativa la disapplicazione viene spostata al 31 marzo. È un po' un formalismo per dire che il contratto viene disdetto al 31 dicembre, ma poi la sua disapplicazione vera e propria slitta al 31 marzo. E visto che parliamo di contratti di lavoro, dopo il meteo e la viabilità, la pubblicità, ascolteremo il numero di assunzioni previsto dal piano industriale di Poste Italiane. Ha previsto nei prossimi 5 anni 8.000 nuove assunzioni e 3 miliardi di investimenti. Ripeto, in questo periodo le buone notizie le cerchiamo col lumicino, ma qualcosa riusciamo a trovare. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, il meteo. minuti. Allora, 3 miliardi di investimenti nei prossimi 5 anni, 8 mila assunzioni. Questo quanto annunciato ieri in serata nel piano strategico delle Poste Italiane, il primo a firma di Francesco Caio, piano strategico 2015-2020. Il gruppo ha un giro d'affari di oltre 26 miliardi di euro e ha chiuso l'anno scorso con 1 miliardo e 400 milioni di euro di utili. Tra l'altro, essendo controllato al 100% dal Tesoro, fa parte dell'obiettivo di quotazione di privatizzazione dell'anno prossimo. Il governo vuole quotare forse nel 2015 il 40% della società, che ha 143.000 dipendenti, 13.000 uffici postali, e vede un grosso apporto sia dal comparto bancario, 6 milioni di conti correnti postali e 6 milioni e mezzo di carte postamat, sia dal comparto assicurativo. L'anno scorso la parte più alta, diciamo meglio, la crescita più alta del fatturato c'è stata proprio nel comparto assicurativo. La raccolta ha superato i 13 miliardi di euro. Allora, ne abbiamo parlato ieri con Francesco Caio, appunto amministratore delegato di Poste Italiane, a cui abbiamo chiesto innanzitutto quali siano le previsioni sul 2014. Il 2014 rappresenta un po' la sintesi della fase in cui si trova oggi Poste Italiane, che è un po' luce e un po' ombre, nel senso che abbiamo un fatturato che continua a crescere, come negli ultimi anni, lei ricordava, le assicurazioni sono sicuramente un motore di spinta del gruppo oggi, ma margini in flessione fondamentalmente legati alla diminuzione dell'utilizzo che i cittadini e le imprese fanno della corrispondenza a fronte di una base di costi fissi legata all'attuale regolamentazione del servizio universale. Quindi un 14 che mantiene questo trend, crescita di fatturato e flessione di margini. E margine vuol dire che l'utile è in calo? Esatto. Di quanto? Diciamo, non abbiamo dato numeri sul 2014, sì, certo, per chiusura, ma diciamo, abbiamo negli ultimi tre anni il margine è calato, diciamo, l'utile, l'EBIT, dal 13 al 10, cioè tra il 10 e il 13 è calato del 26%, quindi è un percorso che inerzialmente non è sostenibile e che richiede una discontinuità strategica e operativa, che è quella che abbiamo diciamo, descritto un po' oggi. Allora, veniamo al cambio di rotta. Iniziamo dall'occupazione e poi vorrei capire anche il modello di business, come dice chi ha studiato, perché lei faceva notare come chiaro che l'utilizzo della posta tradizionale, della lettera, della busta tradizionale è sempre più basso, esistono le mail con buona pace anche degli amanti della lettera, però insomma si tagliano meno alberi, si spende meno carta, voi guadagnate di meno. Però partiamo dall'occupazione, quanti esuberi da un lato e 8.000 assunzioni, ma in quanti anni? È nell'arco di piano che ci siamo dati di 5 anni, di cui diciamo queste 8.000, metà circa giovani laureati, perché cambiando mestiere dobbiamo anche aggiornare le nostre competenze. Lei faceva prima riferimento al modello di business. Noi abbiamo annunciato oggi una posta un po' più semplice, focalizzata, Poste Italiane, su tre direttrici di sviluppo: logistica e posta, pagamenti e transazioni bancarie, assicurazione e risparmio. Sono tre mestieri sistemici, cioè che noi pensiamo possano contribuire a un ammodernamento del paese Italia, agganciandolo ai grandi trend che oggi vedono il passaggio dell'economia dall'analogico al digitale. Attività come l'e-commerce o i pagamenti elettronici, ahimè l'Italia è un po' un fanalino di coda oggi in Europa. Noi pensiamo, con le nostre infrastrutture e i nostri servizi, di poter contribuire a un ammodernamento del paese che passa attraverso l'ammodernamento di Poste. È una visione più semplice e forse anche un po' più trasparente di che cosa è il gruppo, che però basa le sue radici su quello che sappiamo fare. Dicevo, 8.000 assunzioni, 50% giovani laureati, ma gli esuberi? Ma gli esuberi, oggi non abbiamo parlato di esuberi, abbiamo confermato che c'è in atto dal 2010 un processo di gestione delle uscite agevolate che continua e si estende negli anni a venire. Ancora, sulle le tre direttrici lei le ha ricordate, no? Cioè sostanzialmente la parte logistica e poste tradizionale, la parte bancaria e la parte assicurativa. La sensazione è, ma non c'è niente di male, che la parte poste logistica pesi sempre di meno. Vorremmo capire, però, cioè, quello è anche un servizio, è un po' come alcune parti e rami del nostro servizio ferroviario, cioè tu non puoi non garantire un servizio postale. Mi rendo conto che per voi sia delle volte anche un onere, ma se io voglio continuare a utilizzare la lettera, vuoi perché non so usare il computer, vuoi perché ho una certa età, vuoi perché mi piace scrivere, basta, devo poterlo fare. Poi c'è tutta una procedura anche di carattere burocratico, a mio avviso siamo molto indietro con l'amministrazione sulla posta certificata, ancora arrivano le lettere da parte dell'amministrazione pubblica, delle procure, dai carabinieri, ne sappiamo qualcosa noi quando riceviamo mandati di comparizione o querele, insomma non si riesce a fare nulla via email. Ma detto ciò, quanto è l'onere della parte che dovete garantire al paese sul sistema postale? Oggi noi abbiamo dei costi legati all'onere del servizio universale che è vicino al miliardo, a fronte di una indicazione, diciamo un compenso di quest'onere da parte dello Stato, che oggi è di 350 e l'anno prossimo sarà 260. Quindi dobbiamo ripensarlo ed è quello che abbiamo fatto insieme alle istituzioni. Cioè garantire i postini, facciamo capire a tutti, Caio, garantire i postini in tutta Italia, perché ovviamente uno la busta la deve poter imbucare dovunque, vi costa 1 miliardo. A fronte di uno Stato che vi gira 300, 350. Allora, noi ci teniamo a dire che per noi la posta continua a essere uno degli assi portanti del sistema. Io dico ai colleghi e all'esterno che non c'è poste senza posta, perché la struttura logistica è vista da noi come una struttura essenziale che porti corrispondenza o che porti pacchi sempre di più in crescita come risultato del commercio elettronico. È importante sottolineare che in questi mesi abbiamo lavorato, come dicevo, con le istituzioni per ridisegnare un po' le regole di ingaggio del servizio universale. A fronte di una richiesta che parte dal cittadino e dal pubblico di avere diversi valori, cioè al cittadino, alle famiglie interessa molto di più, abbiamo scoperto parlandoci, la certezza dell'arrivo della posta che non per esempio la frequenza. Oppure, così come abbiamo imparato a fare quando compriamo i nostri libri online, diversi prezzi in funzione della velocità di consegna. Si paga meno e arriva il libro ordinato online a 4 giorni, se lo si vuole il giorno dopo si paga 10 euro. Ecco, sono un po' questi gli assi portanti. Da una parte l'abbassamento della frequenza della consegna nelle aree a più bassa densità, e l'altra l'introduzione di una posta ordinaria che costa poco e viene consegnata a 4 giorni, e una maggiore valorizzazione della posta che viene consegnata il giorno dopo. Ecco, su questo in effetti, sempre restando sul piano industriale, io dicevo prima, è vero che si scrivono sempre meno lettere, ci sono forse delle generazioni nuove che le lettere non sono scritte per Natale o in rarissimi casi, però l'e-commerce, come lei già ricordava, potrebbe, tra virgolette, essere complementare al calo invece della, certo, della posta tradizionale, cioè spedisci meno lettere ma arrivano più pacchi. Il problema è così. Ecco, quant'è il dato, diciamo così, di conversione da un lato, e poi però una domanda anche sulla digitalizzazione del paese. Poste Italiane parte da una posizione più debole rispetto agli altri operatori postali europei sui pacchi. Gli altri hanno circa il 50%, noi il 10%, quindi per guardare il bicchiere un po' mezzo pieno, diciamo che c'è un'opportunità di crescita che stiamo già sperimentando. Noi abbiamo fra gli altri clienti Amazon, che sulle consegne ci sta sicuramente aiutando ad aumentare i volumi, e noi stiamo aiutando loro sulla consegna dell'ultimo miglio. Certo, è un fatturato un po' meno ricco di quello, diciamo. Cioè, lei ci sta dicendo, ingegner Caio, che nel resto d'Europa su 50% di ricavato dalle lettere, l'altro 50% è dalle spedizioni postali, i pacchi appunto, grazie all'e-commerce, cioè a chi ordina il libro, l'elettrodomestico, sì, l'abbigliamento online. In Italia siamo ancora 90% lettere, 10% pacchi. Sì, esatto, più o meno queste sono le proporzioni. Quindi diciamo, c'è per noi una grande opportunità di crescita. Tenga conto che in termini di offerta al mercato noi possiamo offrire una capillarità di distribuzione e di raccolta pacchi legate ai nostri postalettere, ma anche l'opportunità per esempio di avere i pacchi che i clienti ordinano online consegnati invece che in portineria presso l'ufficio postale più vicino, fare un po' da portineria degli italiani, combinando questi servizi con i nostri sistemi di pagamento. Quindi stiamo ripensando l'offerta, mettendo insieme le diverse anime del gruppo. Ma ancora una volta, nel principio che dicevo prima, poche cose fatte bene sui nostri tre mestieri di punta. Allora, veniamo al tema della digitalizzazione. Glielo chiedo per un motivo, perché insomma tutto questo è possibile se si digitalizza il paese. Cioè, se io posso ordinare online un libro, viaggiare online, avere una velocità accettabile di 3G, mi dicono che sia il minimo, diciamo, per riuscire a navigare in maniera decente, allora poi posso avere anche dei servizi postali. Lei è stato a lungo il capo messo lì da Enrico Letta, se non ricordo male. Sì. Doveva avere come obiettivo la digitalizzazione, l'agenda digitale del paese. Poi è andato, sì, a fare il numero uno delle poste, quindi ha dovuto mollare il colpo. Però, insomma, che cos'è che sta mancando? Perché non parte questa digitalizzazione del paese? Ma guarda, io le dico una cosa che è partita, ahimè, aggiungo, come responsabile delle poste. La fatturazione elettronica oggi è una realtà. E la fatturazione elettronica inizia soprattutto nei confronti della pubblica amministrazione centrale, a partire dall'anno prossimo sarà estesa anche alla locale. Fu fatto all'epoca un grande lavoro di standardizzazione dei dati, la macchina è partita, ne pago le conseguenze, perché poi sono meno fatture cartacee che girano, ahimè. Vabbè, adesso però un po' una mano, se no torniamo anche al piccione, anche perché lei era stato dal 2003 al 2006, mi sono legato di cable and wireless, certo. E quindi conosce bene il settore delle telecomunicazioni. No, al di là delle battute, quello che un'azienda come Poste può contribuire nel processo di digitalizzazione è proprio una funzione di accompagnamento di ampie fasce di cittadini, di imprese, di pubbliche amministrazioni locali verso i servizi digitali, che non significa che ci mettiamo a vendere cose strane con i LED che si accendono e si spengono, ma prodotti semplici, senza far pubblicità alle nostre carte di pagamento, che consentano in modo semplice, attraverso i nostri uffici postali, quindi con una porta, mi lasci dire, analogica, di portare ampie fasce della popolazione nei processi, verso l'adozione di processi digitali. Questo io vedo come settore di cooperazione istituzionale con il governo, ed è sicuramente un'area che fa parte del piano industriale che abbiamo presentato. Questa quindi l'intervista a Francesco Caio, realizzata ieri sera. Insomma, mi sembra molto chiaro, le Poste mantengono la gamba del servizio postale tradizionale, cercando di avere maggiori ricavi sulla spedizione di pacchi, sapendo che i ricavi sulla spedizione tradizionale di lettere sono in diminuzione, per non dire che sono costi. E poi c'è la garanzia del servizio al territorio, però affiancano sempre di più a questo la parte bancaria, e quindi depositi, postamat e la parte assicurativa. Vedo che alcuni lamentano le commissioni del Banco Posta, e va bene, e alcuni chiedono, devo dire, più di un sindaco sta scrivendo al 349-238-6666 di non chiudere gli uffici postali nei comuni montani. Mi sembra che non vi sia nessuna indicazione di ulteriori chiusure degli uffici postali. Sui 535 milioni che il governo ha girato alle Poste nella legge di stabilità, beh, la risposta era chiara, nel senso che è un atto dovuto come decisione della Commissione europea, e quindi verranno incassati e messi in contabilità dalle Poste italiane. Si tratta di più di mezzo miliardo. Comunque, adesso il traffico e poi la borsa, che ha chiuso in calo dello 0,50% Milano. Allora, vedo altri messaggi sulle Poste, cerco di fare una sintesi. Il servizio postale è troppo lento anche sulla posta prioritaria, i costi delle spedizioni sono aumentati negli ultimi 3 anni e molti lamentano le code in posta e quindi anche l'assenza del personale, altri criticano le consegne di SDA. E poi dal primo giorno del mese fino al 15-20 del mese andare in posta è da incubo. Alcuni dicono, attenzione, se però uno deve andare a ritirare il pacco di Amazon, l'esempio fatto prima da Caio, o deve andare a ritirare comunque un altro pacco postale all'ufficio postale, tale è la fila e il tempo che ci si mette che non diventa più conveniente. Allora vedo, ce ne sono una marea. Dunque, alcuni lamentano anche, dunque l'ho persa, il tempo di pausa, però non so se sia, cito semplicemente il messaggio, per il cambio turno in cassa dura 1 ora mentre in banca 5 minuti. E poi molti lamentano le bollette delle utenze che arrivano quasi sempre a ridosso della scadenza. Vabbè, ce n'è da lavorare. Mi sembra che insomma lo stesso Caio più o meno ammettesse che sul fronte consegna pacchi, spedizione pacchi soprattutto, i margini sono ampi, anche per responsabilità delle Poste stesse, perché ovviamente se uno usa poi dei soggetti privati evidentemente lo fa perché c'è maggiore velocità e maggiore affidabilità, per cui i margini ci sono. E come? Confermo invece, visto che molti me lo chiedono, che Caio ha detto che verranno rimodulati i prezzi dei servizi, quindi pagare meno per le consegne lente, di più per quelle più veloci. Basta non pagare lo stesso per le consegne lente e solo un aumento per quelle più veloci, ecco. Bobo, Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. La borsa oggi priva di grandissimi spunti, meno 0,50% Milano, più 0,40% Parigi, meno 0,20% Francoforte, anzi Londra 0,07%, lo adoriamo quando Londra fa 0,07%, e l'America più 0,80%. Tutte un po', si attendono tutte le novità che dovranno arrivare questa sera dalla Federal Reserve. E poi come andrà a finire il voto di Atene? Attenzione, oggi, ripeto, è solo la prima votazione, c'è tempo fino al 29 di dicembre per eleggere il presidente della Repubblica Greca. Andiamo sui titoli. Bene Tenaris ed Eni più 2,20. Tenaris più 1,80 Eni, Iux più 1,5, A2A più 1,1, Banco Popolare più 0,90. Deboli le banche in generale a partire dal Monte dei Paschi meno 2,85%, meglio di altre ha fatto Unicredit, Eleonora. Sì, esatto, per quanto riguarda i petroliferi, come hai detto tu, Eni è rimbalzata, ma anche Tenaris e anche Saipem sul finale, perché il prezzo del greggio sta recuperando terreno. In questo momento il WTI segna un progresso dell'1,3%, si attesta a $56,69 al barile. A dare il là, diciamo, al recupero è stata la notizia che in America le scorte petrolifere sono calate, anche se meno delle attese degli analisti, comunque sono calate, e quindi questo ha dato il là per il recupero del greggio e conseguentemente per tutte le azioni, che in verità fino a un'ora dalla chiusura avevano un andamento ben diverso. Poi per quanto riguarda le banche, come hai detto tu, sono rimaste deboli, ma Unicredit, diciamo, ha arginato invece le perdite a mezzo punto percentuale dopo le rassicurazioni date da Federico Ghizzoni, il numero uno dell'istituto, a proposito della controllata che il gruppo ha in Russia. Il manager ha infatti detto che i risultati della controllata per quest'anno dovrebbero essere in linea o addirittura superiori alle attese. Inoltre ha detto che anche gli scossoni del rublo, siccome non sono stati praticamente eggiati, vale a dire, cioè la banca si è premunita su questo e peraltro a metà diciamo bilancio espresso, sì, in dollari, non dovrebbero provocare alcuna variazione dell'utile. Insomma, Ghizzoni ha detto che l'utile del 2014 non sarà intaccato, e quindi questo ha dato un po' più di certezza e di sicurezza agli investitori. Allora, Monte dei Paschi, Saipem e A2A, se ce la facciamo in due minuti. Sì, Monte Paschi peggio delle attese, meno 2,8, perché si comincia a ragionare di nuovo sull'aumento di capitale da 2,5 miliardi, che potrebbe slittare, no? Sì, proprio ieri Viola ha detto che dovrebbe essere fatto a marzo-maggio, anche se la parola ultima sarà della Banca Centrale Europea. Poi per quanto riguarda 2A è andata bene, più 1,12%, in questo caso è una banca d'affari che ha acceso i riflettori dicendo che dovrebbero crescere i dividendi, soprattutto si è riacceso i riflettori sul fatto che la società rivedrà il piano industriale, lo presenterà a marzo, ci sarà probabilmente efficienza. No, ascolta, su Saipem, visto che vorrei parlare anche di Fiat, facciamo così, Leonora, aspettiamo dopo il GR24, quindi le ultime notizie e aggiornamenti, poi torniamo a fare la chiusura di commento di borsa sia su Saipem che su Fiat Chrysler. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Leonora Micheli, dicevamo di Saipem e Fiat, e poi darò io i migliori e i peggiori, prego. Sì, Saipem è andata male fino a poco prima della chiusura delle contrattazioni a causa di uno studio di UBS che ha raccomandato la vendita delle azioni, ipotizzando che la società prima o poi abbia necessità di un aumento di capitale, soprattutto tenendo conto che è saltato anche il progetto South Stream. Comunque poi sul finale, grazie al recupero dei petroliferi, ha chiuso in progresso di oltre mezzo punto percentuale. FCA è rimasta sotto i riflettori, in questo caso l'andamento è stato opposto, era partito partita bene e poi invece ha chiuso in calo dell'1%, ed era partita bene festeggiando più che altro i dati sulle immatricolazioni europee di novembre. FCA ha fatto meglio del mercato, ha vantato un progresso delle vendite in Europa del 3,7% contro il mercato che ha fatto solamente più 1,4%, dunque la quota di mercato è salita al 5,9% dal 5,8% del novembre 2013. Allora, per quello che riguarda invece i migliori e peggiori, abbiamo Key Group più 7%, Total più 6,80%, ERG più 5%, fronte opposto IKF meno 10, SEAT pagine gialle meno 10, HiReal meno 5,80%, la Zucchi meno 4,60%. Grazie, onore Michele, Radio Cori, Sole 24 Ore. E adesso restiamo sulla giornata economica, in questo caso non finanziaria, e quindi le parole pronunciate dal commissario straordinario dell'ILVA, Piero Gnudi, oggi in audizione alla Commissione Attività Produttive della Camera. Moltissimi messaggi sulle Poste italiane, riavremo Caio. Allora, mi scrive un'ascoltatrice che mentre ascoltava Caio era alla posta e c'erano 30 numeri prima di lei, meno male che ho la radio, vabbè. Ancora invece un caso che, secondo quanto scrive un ascoltatore, non è infrequente: ha acquistato un cofanetto DVD su Amazon, l'ha ritirato presso l'ufficio postale più vicino, doveva andare a ritirarlo all'ufficio postale più vicino, è andato 15 minuti prima della chiusura, non l'hanno fatto entrare perché c'era troppa gente dentro, e il pacco è ritornato indietro, l'ha scritto su Amazon e ha scoperto che è una cosa comune. Ce n'è di strada. Allora, il commissario straordinario Piero Gnudi che dice due cose, le ascoltiamo assieme. La prima, ho soldi in cassa come Ilva per pagare gli stipendi a dicembre e forse a gennaio, e poi sta trattando con la Svizzera per ottenere un miliardo di euro già sequestrato alla famiglia Riva, ma che è in Svizzera legalmente perché era stato a suo tempo scudato. Oggi purtroppo noi i denari li abbiamo finiti. Abbiamo pagato gli stipendi di novembre e penso che abbiamo anche la possibilità di pagare gli stipendi di dicembre, ma poi più avanti non faccio fatica ad andare. E quindi ci si pone il problema di trovare una soluzione che, fra altre cose, anche la soluzione del commissario governativo era comunque una soluzione provvisoria, poi infatti la legge prevedeva che poteva durare al massimo 36 mesi, di cui 18 già passati. E poi non è facile gestire un'azienda in una procedura commissariale, cioè, perché poi fai la fatica di attrarre i manager di qualità, perché è comunque una soluzione provvisoria. I soldi svizzeri, ripeto, l'ho già detto altre volte in questo pomeriggio, noi siamo confidenti di poterli avere. Ripeto, il ricorso fatto dal fratello Riva non è sul merito, ma è sul problema della costituzionalità. L'UBS si è dichiarata di pronta a inviare questi soldi in Italia. Ci abbiamo il problema di questo sequestro fatto dal procuratore di Berna, che pare che però sia in soluzione, perché lui l'aveva fatto dicendo: prima di dare la disponibilità di questi soldi vorrei che ci sia chiarezza, e adesso mi sembra la chiarezza c'è, perché c'è una sentenza di un tribunale italiano che teoricamente loro sarebbero obbligati a rispettare. E poi la frase che creerà forse più, non dico polemiche ma perplessità: nessuno comprerà un'azienda sotto sequestro, e oggi l'ILVA ha il 75% degli impianti sotto sequestro. Stiamo parlando del primo stabilimento siderurgico italiano, il secondo in Europa, che fornisce il 50%, forniva, della produzione di acciaio di questo paese, 12.000 addetti nel polo di Taranto, commissariato dopo le inadempienze di carattere ambientale emerse. Il fatturato intanto è precipitato dai 6 miliardi del 2011 ai 3 miliardi e 8 del 2013. Paolo Bricco, rapidissimo e buonasera innanzitutto. Sì, buonasera 20... Sebastiano e buonasera a tutti i radioascoltatori. Ecco, il 24 di dicembre c'è il Consiglio dei Ministri che potremmo battezzare della vigilia. Ma sì, qui nel presepe di Renzi arriverà qualcosa per l'Ilva oppure no? Perché lui ha detto non possiamo abbandonare i lavoratori o vedere svendere l'Ilva al primo privato che vuole approfittarne. Ora, non penso che si riferisse al gruppo Arvedi, penso che si riferisse al gruppo indiano ArcelorMittal che ha fatto un'offerta congiunta con il gruppo Marcegaglia. Questo di fatto è uno stop all'offerta di Mittal considerata troppo a prezzo di saldo, troppo da capestro? Ma è difficile dirlo ancora. Di certo nel presepe natalizio a cui tu hai accennato, Gesù Bambino che deve arrivare è di natura giuridica. Servono dei cambiamenti per poter fare l'amministrazione controllata da legge Marzano. Tecnicamente l'azienda non è ancora in dissesto, ancora mi viene da dire tristemente, e quindi serve quella prima procedura tecnica. Fatta quella cosa si penserà poi a chi venderla. Certo Renzi, rispetto all'impostazione di Guidi e di Gnudi, che erano come dire molto favorevoli a cercare soluzioni di mercato anche a costo di in qualche maniera cercare acquirenti non particolarmente generosi dal punto di vista della definizione del prezzo, Renzi ha un'impostazione diversa, preferisce una gestione politica, diciamo politica forte della situazione e preferisce quindi evidentemente anche dire nazionalizziamo temporaneamente, tanto che al CDP, il Fondo Strategico di San Magnini, la Cassa Depositi e Prestiti di Gorno Tempini, sono da settimane sotto la pressione di Sherpa e del nuovo inner circle creato intorno a Renzi per gestire la cosa, cioè l'economista della London School Simoni e l'ex amministratore delegato in particolare di Luxottica Guerra. Che hanno in mano diciamo il dossier. Certo, devo dire, voi avete appena trasmesso il documento appunto del commissario Gnudi, persona di livello, un grande commercialista, uomo ex presidente dell'IRI e devo dire che la voce accorata veramente in difficoltà che abbiamo sentito del commissario Gnudi vale davvero la rappresentazione della difficoltà e del dramma dell'Ilva odierna, ecco, era veramente una voce di una persona anche in difficoltà emotiva per la situazione che ha seguito e ha cercato di gestire con i mezzi e le condizioni che gli sono state date. Ma no, ma è chiaro, insomma, poi la missione che ha i soldi in cassa per pagare gli stipendi fino a dicembre, gennaio. Allora, è una cosa drammatica. Allora, vabbè, questa, ma va bene, ma a questo punto, se l'offerta di ArcelorMittal non va bene, io posso anche seguire il ragionamento perché è sbagliato svendere un polo siderurgico che è un polo che funziona. Poi, se la famiglia Riva, come da accusa dei PM, non ha rispettato gli adempimenti di carattere ambientale, che paghi penalmente, ha già un sequestro di beni, ma dico il polo c'è. Oh, ma sono 12.000 persone lì, con le relative famiglie. Cosa gli diciamo? Che da febbraio forse gli stipendi ci sono. Allora, il 24 annunciate che la CDP entra temporaneamente nell'ILVA, almeno gli stipendi ci sono e usciamo da questo cul-de-sac, da questa situazione di impasse totale. Questa tua idea, diciamo, di una rapida esecuzione tutte le parti del processo deve essere assolutamente realizzata, perché è vero che serve prima la modifica giuridica della legge Marzano, però poi a seguire in maniera contestuale bisogna fare delle scelte rapide, delle scelte rapide o in un senso o nell'altro, perché davvero il tempo scade. Va bene, va bene, non ce l'ho con te. Grazie a Paolo Bricco, il collegamento con noi, traffico. Allora, non possiamo continuare sull'ILVA, ma non ce l'ho come scrivono alcuni con l'Italicum. Dico solo che ci sono alcune emergenze. La riforma della legge elettorale sicuramente è una cosa importante, ma ma non è un'emergenza, a meno che non si voglia andare a lezioni a maggio del 2015, non è un'emergenza, l'ILVA è un'emergenza. Chiudere un semestre con qualche novità, un semestre italiano, è un'emergenza. Capire cosa vuole fare la Germania con la BCE di Mario Draghi è un'emergenza. Ma a me sembra che siano queste le emergenze. E poi facciamo anche l'Italicum, che appassiona tutta l'Italia. Certo, rispetto al Porcellum. Allora, qualche buona notizia. Arriva, come dicevamo in apertura, dall'ultimo aggiornamento sugli scenari economici elaborato dal Centro Studi Confindustria. Qualche timida indicazione positiva. Un biennio di graduale recupero per l'Italia, pur in uno scenario che rimane enigmatico. E lo scenario economico globale, aggiunge il Centro Studi, si presenta nettamente migliore rispetto a 3 mesi fa, anche se l'incertezza resta elevata. Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria, in collegamento con noi, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, dicevo, non voglio forzare l'analisi e sembrare più ottimista del necessario, però voi dite si presenta migliore rispetto a 3 mesi fa lo scenario economico. Intanto per quale motivo lo dite? E poi vorrei capire alcune altre cose sulle previsioni. Che cos'è che è leggermente migliorato? Perché a fare la cronaca tutti i giorni delle giornate economico-finanziarie non sembrerebbe. Luca? Beh, diciamo che 3 cose fondamentalmente: un prezzo del petrolio che si è ridotto di un terzo, che per l'Italia ai livelli attuali, che sono più bassi di quelli che noi abbiamo inglobato nello scenario, vale un risparmio di circa 18 miliardi di euro l'anno, un tasso di cambio più favorevole e una domanda mondiale che cresce più di quello che stimavamo 3 mesi fa. E tutti questi 3 fattori forniscono un impulso nel 2015 al PIL italiano dello 0,8%, un altro 0,9% abbondante nel 2016, quindi dare un incremento del PIL 0,5% l'anno prossimo significa che già scontiamo che una parte di questi benefici non arrivino alla fine per la prudenza, l'incertezza e così via. Quindi significa appunto essere in ogni caso prudenti nel recepire questi numeri. Quindi Paolazzi, se ho ben capito, voi dite se il petrolio restasse diciamo intorno ai 50-54 dollari al barile e l'euro a 1,24, avremmo un beneficio dello 0,8% sul PIL l'anno prossimo e dello 0,9% sul 2016. Però siccome c'è un'incertezza, non possiamo sapere se resteranno a questi livelli da un lato il petrolio, dall'altro il rapporto di cambio, voi in maniera prudente dite 0,5%. No, noi indichiamo già una 70 dollari, non 54. 54 il beneficio è ancora maggiore. Perfetto. E fissiamo il cambio a 1,25. Okay. Quello che diciamo è che l'incertezza, i fattori frenanti che continuano ad esistere nell'economia italiana e nell'area dell'euro nel suo complesso rendono prudenti i comportamenti di famiglie e imprese, per cui non in altre epoche questa manna del cielo del petrolio basso avrebbe spronato, dato un impulso sicuramente positivo. Oggi sappiamo che l'impulso positivo c'è, ma è difficile l'entità. Comunque noi nella stima di 0,8-0,9 indicato prima eliminiamo una serie di ricadute positive che in passato c'erano, per esempio la riduzione dei tassi di interesse che ha sempre accompagnato l'abbassamento del costo dell'energia, perché al costo dell'energia più basso seguiva anche un'inflazione più bassa. Essendo i tassi di interesse già ridotti, non possiamo immaginare un beneficio anche su quel fronte. Allora, voglio fare forse una provocazione, ma potremmo dire che nonostante i tassi di interesse ai minimi storici, un prezzo del petrolio basso, anche se voi appunto lo stimate a 70 dollari, non a 54, e un rapporto di cambio favorevole rispetto a un anno fa, anche se voi lo stimate a 1,25, nonostante ciò la crescita sarà modesta, e uno potrebbe aggiungere quindi quello 0,5 dell'anno prossimo che voi stimate è sostanzialmente dovuto a petrolio ad euro, non a una crescita così endogena al di là di questi fattori esterni? Assolutamente così, riteniamo che l'economia italiana continui a faticare molto a risollevarsi, anche perché ricordo l'area dell'euro nel suo complesso va male, non va bene se non altro, e quindi anche l'area euro beneficerà, diciamo, di questi fattori esterni e influenzerà positivamente noi, però non è, diciamo, un ritrovare slancio attraverso una maggiore fiducia, attraverso fattori interni, ma tutto viene da fuori. Quindi il titolo potrebbe essere cresciamo ma solo grazie a petrolio ed euro, non grazie a motivi interni, forse. Beh sì, teniamo conto che qualche segnale di stabilizzazione c'era stato negli ultimi mesi e su questo ci aggiungiamo questo effetto. Per il resto preferiamo rimanere molto prudenti, perché oggettivamente le delusioni patite gli ultimi, diciamo, anno e mezzo in termini di mancata crescita ci fanno capire che le difficoltà del paese sono ancora al di là di essere superate. E quindi comunque quello che possiamo dire è che, appunto, ci sarà un vantaggio di petrolio ed euro, che sarà questo, diciamo, la spinta principale a questo aumento del PIL, anche perché, e questo mi sembrava abbastanza chiaro dalla tua analisi, i consumi interni italiani resteranno deboli e deludenti. Ah, i consumi per la verità sono l'unica componente della domanda interna che ha mostrato qualche segno positivo negli ultimi mesi, sì. Beh, da metà 2013 hanno fatto già un cumulato di più 0,6 da metà 2013, che è pochissimo, ben inteso, ma rispetto a come stanno andando gli investimenti. E l'altro aspetto che va ricordato è che le famiglie hanno un tasso di risparmio molto basso per l'esperienza storica, quindi una parte del bonus petrolifero lo incamereranno per rimpinguare questo tasso di risparmio. Quindi l'aumento di reddito disponibile delle famiglie, che noi quantifichiamo in termini reali di un circa 2% l'anno nei prossimi due anni, si tradurrà in un incremento dei consumi molto basso, intorno allo 0,6-0,8%, il resto appunto finisce in risparmio. In risparmio. Anche questa è una previsione, appunto, come si vede, prudenziale. Prudente, sì. Cioè, in un clima di fiducia del genere e con un risparmio che si è eroso, voi dite anche l'aumento di potere d'acquisto finirà per quasi due terzi nel risparmio, diciamo, con un'espressione figurata, sotto il materasso o nel deposito bancario, non i nuovi consumi. Quindi mancano all'appello, Luca Paolazzi, più gli investimenti industriali delle imprese che i consumi, paradossalmente. Assolutamente sì, perché gli investimenti sono ancora più sensibili che i consumi alle aspettative riguardo alla domanda futura e alla crescita futura, che questa appunto rimane molto incerta per ragioni volte dette, elencate, soprattutto all'interno dell'area euro, per la mancanza di credito, la difficoltà a reperire il credito, per l'eccesso di capacità produttiva inutilizzata, che rimane molto ampia, per bassa redditività degli investimenti stessi. Il tasso di profitto in Italia oggi è minimi storici, sono tutti fattori che appunto non incoraggiano a investire nel nostro paese. Allora, grazie a Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria. Devo dire che apprezzavi la battuta, possiamo dire che nella caduta da grattacielo abbiamo trovato un tombino aperto. Vabbè, non è esattamente così. È vero che gli elementi di crescita, come ricordava bene Luca Paolazzi, sono di carattere esterno: basso prezzo del petrolio per il 2015 e euro in indebolimento. Devo chiudere purtroppo con una notizia non bella che riguarda l'Ilva, perché in questo istante l'ENI ha fatto sapere che a fine anno scadranno le forniture di gas all'Ilva, non avendo l'Ilva concluso alcun accordo commerciale né con ENI né con altri fornitori dal 1 ottobre del 2014, è entrata in regime di fornitura di default. Tale regime ha peraltro una durata massima di 90 giorni, pertanto scadrà a fine anno. Lo dico perché sempre il commissario Gnudi oggi aveva definito una catastrofe l'ipotesi che l'ENI potesse cessare le forniture all'Ilva. Nazionalizzatela se non avete altre offerte, ma non si può continuare così. Comunque, domani dalle 17 in poi un'altra puntata di Focus Economia. Comunque la pensiate, comunque vada, l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.